per la storia del diritto europea di Max Planck di Francoforte, ha mandato ieri un telegramma dicendo che non poteva venire, che si invierà una lettera, eccetera. Un altro telegramma l'ho da qualche parte e riguarda il professor Tessitore, che doveva venire da Napoli e che invece non è venuto, perché essendo presso in facoltà ha dovuto compiere, prego, una convocazione del consiglio di facoltà all'ultimo momento. Il professor Grossi, che avrei desiderato molto che ci fosse, perché anche lui non è mai stato presente alle nostre operazioni in istituto, Paolo Grossi di Firenze, si scusa moltissimo, c'è in questi giorni, come forse qualcuno di voi sa, una riunione importante del CUN, cioè del, si chiama Comitato Universitario Nazionale, che riguarda anche i concorsi a cattedra e queste cose, e Grossi è maxima pars nel CUN, e quindi con grande rammarico mi ha pregato però di dire che proprio davvero è molto rammaricato di questo, di salutare tutti, eccetera. Più grave e però altrettanto evidentemente giustificabile e comprensibile è l'assenza del professor Prodi, che è il segretario di questo istituto, che avrebbe voluto naturalmente essere presente e che invece non può essere presente perché per motivi, diciamo così, politico-istituzionali doveva partecipare assolutamente all'apertura del congresso del Partito della Democrazia Cristiana, che comincia oggi a Roma, essendo Prodi dirigente per nazionale per la cultura, per i problemi della cultura, da poco tempo. È ovvio che non poteva evidentemente rinunciare a questo. La stessa ragione impedisce di essere qui al carissimo amico di tutti, professor Roberto Ruffilli, senatore della Repubblica e dirigente per i problemi dello Stato e delle istituzioni, cosa che mi fa ridere perché eravamo compagni di scuola e amici fraterni, quindi l'idea che un mio amico sia responsabile per i problemi dello Stato mi fa invidia prima e poi anche però mi fa ridere, devo dire. Sì. Comunque, diventando vecchi queste cose succedono, no? Gli amici diventano importanti e quindi anche a lui va del nostro pensiero, insomma. Speriamo che combinino del buono, ecco. Io non so se ho forse dimenticato qualcuno, comunque insomma è importante che ci siamo invece tutti noi e che cominciamo a lavorare. No, invece l'importante davvero di tutto è che non c'è la persona con cui questa iniziativa era stata ideata, insomma, questa iniziativa non di oggi ma di tutto il nostro gruppo, era stata ideata ed era iniziata ed aveva cominciato a operare, cioè il professor Enzo Cervelli e sua moglie, la professoressa Marisa Mangoni di Venezia, e loro non ci sono perché la Marisa Mangoni ha oggi un convegno a Ravenna in cui tiene una relazione, oggi e domani, e Enzo Cervelli è impegnato al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Venezia, di cui sta diventando anche lui un personaggio importantissimo. Quindi, e questo è molto grave perché, tra l'altro, la mancanza di Enzo Cervelli, anche per i nostri ospiti, così, cioè, spiazza un po', no, il senso del nostro gruppo, perché mentre forse io rappresento di più l'ala, diciamo così, astratta, insomma, no, modellistico astratta, invece Cervelli rappresenterebbe l'ala concreta, istituzionale, storica, insomma, ecco. E quindi che non ci sia. Però c'è Aldo Mazzacane, che era il terzo con cui siamo partiti, e quindi tu farai da mediatore, non lo so. Adesso volevo solo dire un'altra parola per spiegare ai nostri ospiti il senso di questa iniziativa. Noi siamo partiti presso questo istituto storico italo-germanico di Trento forse 3 anni fa, con intenti puramente empirici, pragmatici. Abbiamo pensato che l'Istituto Storico Italo-Germanico potesse essere la sede per riunire dei degli studiosi, soprattutto giovani studiosi, interessati a cose tedesche. In questo modo noi abbiamo incominciato a riunirci, a vederci e a provare interesse per queste riunioni. E così siamo andati, abbiamo proceduto per il primo anno o due anni. Dopo abbiamo visto che questi nostri incontri cominciavano a acquistare un aspetto istituzionale, insomma, che bisognava in qualche modo dare un'organizzazione, e allora ci siamo rivolti al Comitato Nazionale delle Ricerche italiano, CNR, per ottenere un finanziamento a una ricerca, a un progetto di ricerca che abbiamo costruito sempre in modo, devo dire la verità, molto pragmatico, cioè in modo tale da coprire gli interessi anche diversi che erano presenti nel gruppo. Il CNR ha dato un finanziamento e quindi noi da quel momento siamo diventati un gruppo di ricerca finanziato da CNR. Questo ha significato un po' tentare di unificare le nostre diverse linee di ricerca verso obiettivi più comuni. Stiamo tentando di fare questo. La riunione di oggi cade proprio dopo, alla fine del primo anno di ricerca CNR. Il 29 di febbraio prossimo scade il primo anno di questa ricerca. Questo quindi è il primo rendiconto, diciamo così, pubblico, che noi diamo dei risultati della nostra ricerca. Sono quindi un po' anche costretto a giustificare fin dall'inizio, in anticipo, le inevitabili, farraginosità, si dice in italiano, cioè non perfetta sovrapposizione, continuità fra i diversi interventi che noi avremo tra oggi e domani, perché il percorso da compiere è ancora lungo e quindi noi per oggi davvero siamo, credo, così umili da sottoporre dei risultati proprio ancora non definitivi. Questo è molto importante. Ora, in questo gruppo di ricerca ci sono studiosi che hanno provenienza molto diversa fra loro, sia dal punto di vista disciplinare, sia dal punto di vista delle scuole. Dal punto di vista disciplinare certamente ci sono, storici del diritto, ad esempio, storici delle dottrine politiche, ci sono storici tout court, ci sono storici delle istituzioni, ecco, quindi ci sono storici della filosofia, quindi tutto questo rende abbastanza complicato unificare il tutto. Dal punto di vista delle scuole abbiamo studiosi che vengono davvero da tutte le parti d'Italia, ecco, quindi anche questo rende... Ciao, Herr Krüger, che è un altro ospite tedesco che quindi saluto con particolare gioia, è autore di un recentissimo libro intitolato Die Nationalökonomen in Wilhelminischen Deutschland, credo, e era alla Università di Firenze, quella lì europea, però adesso è a Bruxelles, mi pare, quindi... Boh. Ecco, io quindi chiedo solo comprensione per questa... per tutto ciò che non funzionerà perfettamente. L'organizzazione dei lavori è molto semplice, noi abbiamo questo elenco di... che è qui, interventi che si svolgerà all'incirca così come qui è previsto. Ogni intervento dovrebbe, secondo la mia speranza, contenersi in mezz'ora e anche meno possibilmente. Io propongo, la mia proposta, ma non sono sicuro che sia giusta, è che noi facciamo in questo modo: la discussione cerchiamo di riunirla alla fine oppure ogni quattro interventi, in modo da razionalizzare i lavori. Lascerei però la possibilità alla fine di ogni intervento di porre delle domande, diciamo, particolarmente urgenti o dirette, di chiarimento essenziale su quello che il relatore ha detto, però solo proprio domande di chiarimento proprio specifiche, insomma. Mentre lascerei la discussione a... ecco, l'idea sarebbe che dopo quattro relazioni noi possiamo fare una pausa, o dopo tre relazioni, adesso vedremo, possiamo fare una breve pausa, subito dopo la pausa cominciare la discussione e poi ricominciare con le altre relazioni. Io penserei in questo modo. All'una circa avremo un'altra pausa, che è di tipo anche, come dire, gastronomico, non so, cioè per nutrimento. Però questa volta, lo dico per quelli che erano già venuti altre volte, c'è una innovazione, nel senso che non andremo più in un ristorante e invece tenteremo di nutrirci in luogo, in modo molto leggero e semplice, riservandoci invece questa sera di avere un nutrimento più degno di noi stessi. Va bene così? Io credo di non avere altro da dire. Se ci sono dei chiarimenti, delle domande di tipo organizzativo, pregherei di farle subito, se no cominciamo con il dottor Corni. Io non faccio presentazioni, cioè presento via via che uno viene qui, perché tanto più o meno tutti parlano. Quindi. Allora, il dottor Corni, che è ricercatore presso all'Università di Venezia e che appunto è autore di un libro recente sulla politica agraria di Federico, il grande... Ah, ecco, scusa, sono distribuiti, sono molto bravi. No, loro l'hanno già, sono i... Ecco, perfetto. Mio allievo, si è laureato con me. Allora, avanti, dai. Ma io... Lentamente, perché parliamo italiano. Sì. Non so se professor Schnur e professor Reinhardt, preferite forse che si sieda vicino a voi qualcuno che possa molto bene tradurre? Per esempio, quello che potrebbe fare molto bene è Krüger, naturalmente, di dare precisazione... Oder Sie, glauben Sie vielleicht... Ja, das ist gut. Okay. Allora. Beh, Corni potrebbe parlare perfettamente in tedesco. Sì, questo, anche in tedesco. L'ha scritto anche in tedesco. Ma questo... Bon. Devo iniziare questo a parlare per primo, quindi non so esattamente, insomma, se riuscirò a entrare nell'ordine della logica del nostro seminario. Spero di sì. Se ciò non fosse, siete tutti pregati dopo di dirlo anche nella discussione, la mia relazione, o il mio intervento meglio, è l'unico che riguarda in specifico il Settecento, se non mi sbaglio, e quindi vorrei cercare di sottolineare soprattutto l'ultima parte, diciamo, del Settecento, di soffermarmi soprattutto sull'ultima parte del regno di Federico II, direi soprattutto aprire dei problemi che poi i colleghi che verranno dopo di me e che tratteranno il passaggio dal 7 all'800 potrebbero utilmente riprendere o per tentare comunque di collegarsi un po' meglio ai successivi interventi. Io partirei da una diffusa concezione dell'assolutismo prussiano, in particolare di Federico II, come una rivoluzione dall'alto. Secondo una certa tradizione storiografica, la Prussia avrebbe evitato, alla Prussia sarebbero state risparmiate le lacerazioni rivoluzionarie che si ebbero invece in Francia alla fine del Settecento, perché in Prussia la monarchia sarebbe riuscita, soprattutto sotto Federico II, ad attuare una forma di modernizzazione, di stemperamento dei conflitti, per cui alla rivoluzione violenta dal basso si sarebbe sostituita una graduale, lenta rivoluzione dall'alto, guidata e gestita dallo Stato e quindi dal sovrano e dalla burocrazia. Questa è una concezione che esposta in termini così schematici non si trova molto frequentemente, però direi che è, come dire, un leitmotiv abbastanza diffuso nella storiografia tedesca anche più recente, ed è un leitmotiv che parte da una contrapposizione abbastanza netta tra Stato e società, nel senso che allo Stato viene attribuita in linea di massima una capacità positiva, una capacità dinamica, alla società, e mi riferisco soprattutto alla società rurale, viene attribuito il carattere di passività, il carattere di reazionarietà. All'interno di questo schema dicotomico, lo Stato sarebbe quindi, secondo questa concezione storiografica, l'elemento positivo che ha realizzato una modernizzazione guidata, una modernizzazione graduale, una modernizzazione lenta, ma comunque efficace allo scopo. E lo scopo sarebbe stato appunto quello del mantenimento dell'assetto sociale e dell'assetto politico istituzionale alla fine del Settecento. Ecco, a me sembra, però ripeto, sono piuttosto delle ipotesi di lavoro che quelle che presento qui, che in realtà questo schema potrebbe addirittura essere capovolto, o se non capovolto dovrebbe essere fortemente dialetticizzato. Cioè mi pare in realtà che soprattutto nell'ultima fase del regno federiciano lo Stato, anziché avere una capacità positiva e una capacità riformatrice, si sia invece involuto sempre di più su se stesso, dando, innescando una contraddizione sempre più forte con una dinamica che emergeva nella società, o almeno in certe parti della società. Questa è forse una visione un po', anche questa un po' schematica, un po' paradossale, che io presento soprattutto allo scopo di rendere vivace poi eventuale dibattito o discussione. Mi sembra cioè che sia plausibile, per quello che riguarda la politica agraria dell'assolutismo prussiano, capovolgere la visione tradizionale e, a partire dalla ultima parte del regno di Federico II, e o meglio dalla metà degli anni 60, dalla fine della guerra dei sette anni, che si possa parlare di un effetto ritardante, frenante da parte dell'apparato statale nei confronti di dinamiche che nella società tendevano alla transizione verso il capitalismo. Ripeto sempre, sto parlando prevalentemente dell'agricoltura. Per il settore urbano posso fare soltanto degli accenni, ma qui direi che non sono il miglior competente per parlare del settore urbano. Infatti, studi piuttosto recenti, compiuti soprattutto nella Repubblica Democratica Tedesca, e questo per il fatto che, come tutti sapete, geograficamente la maggior parte della Prussia d'Oltrelba oggi corrisponde al territorio della Repubblica Democratica Tedesca, e anche dal punto di vista archivistico la maggior parte della documentazione archivistica sul Settecento assolutistico si trova negli archivi della Repubblica Democratica Tedesca. Dicevo appunto, ultimamente, soprattutto da parte di storici della DDR, sono state presentate numerose ricerche, numerosi studi, anche microanalitici, cioè su singole aziende, su singoli distretti, su singoli territori dell'antica Prussia assolutistica, che dimostrano come il quadro tradizionalmente predominante di un'agricoltura stagnante o statica alla fine del Settecento per la Prussia non tenga. Cioè anche nella Prussia d'Oltrelba, secondo queste ricerche, che però si rifanno poi in parte a studi di studiosi tedeschi di fine Ottocento come Georg Friedrich Knapp o altri, Hansen eccetera, l'agricoltura d'Oltrelba sarebbe stata percorsa da importanti fermenti dinamici, da una forte tendenza verso l'ammodernamento dei sistemi produttivi e anche da una tendenziale transizione verso il capitalismo. Gli elementi che corroborano questa interpretazione sono svariati. Ad esempio, è stato messo in luce, soprattutto da Hans Heinrich Müller e poi da uno studioso americano allievo di Hans Rosenberg, James Leonard Roth, è stato messo in luce il ruolo attivo di una classe sociale che fino ad allora, o meglio di un gruppo sociale, che fino ad allora era stato scarsamente considerato dalla storiografia, il gruppo degli affittuari demaniali, cioè di quegli imprenditori per lo più borghesi, comunque non nobili, i quali gestivano a nome dello Stato le grandi unità demaniali, gli Ämter, in forme spesso molto moderne e con una forte tendenza verso il mercato, sia interno sia internazionale. Questo gruppo sociale dei Domänenpächter, come si chiamano in tedesco, è stato appunto studiato solo recentemente, anche se in modo insufficiente, perché gli studi che esistono finora riguardano soltanto la Marca di Brandeburgo e la Prussia orientale. Non abbiamo studi su altre regioni della monarchia. Gli studi che abbiamo finora però ci mostrano come questo gruppo sociale tendesse ad una forte dinamica e tendesse a perpetuare all'interno della famiglia l'affitto, che teoricamente doveva durare 6 anni, che però in realtà veniva molto spesso prolungato, dando vita a forme quasi di ereditarietà dell'affitto, e si tratta di imprenditori dotati di grosse risorse finanziarie, perché tra canone d'affitto e spese di gestione dell'azienda, eccetera, queste ammontavano a svariate decine di migliaia di talleri, quindi a capitali piuttosto ingenti, è stato, mi sembra, dimostrato in maniera piuttosto convincente che nel settore demaniale, molto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo nella monarchia prussiana, ci fosse una parte dell'agricoltura che puntava abbastanza decisamente verso la transizione. Lo stesso credo si possa dire per l'altra grande parte dell'agricoltura prussiana, cioè l'agricoltura nobiliare, il settore privato, diciamo così. Come penso sapete, e infatti in Prussia praticamente i contadini detenevano in possesso pieno una quantità quasi irrilevante di terre. La maggior parte delle terre o erano demani o erano sotto la proprietà nobiliare, anche se qui c'è da fare una distinzione tra Besitz e Eigentum, cioè la proprietà eminens o superior, come si dice in latino, e il possesso non so come definirlo, inferior, comunque l'uso, diciamo, il possesso, ecco, sì, non sono molto esperto di termini giuridici, tra proprietà e possesso, ecco. Esiste questa distinzione, quindi possiamo tralasciare l'economia contadina in un certo senso, anche qui storici della DDR hanno voluto, soprattutto della DDR, però anche in Polonia, per terre ex prussiane, ci sono degli studi in questo senso, hanno voluto dimostrare come anche in certi settori contadini ci fosse una tendenza al passaggio verso forme di produzione capitalistica, quindi per il mercato. Nell'altra appunto grande parte dell'agricoltura prussiana, cioè la proprietà privata nobiliare, esistono anche qui elementi diciamo che contraddicono un po' una visione piuttosto statica e grigia, così unidimensionale, dell'agricoltura nobiliare alla fine del Settecento. Infatti abbiamo elementi perlomeno di contraddizione all'interno di questa staticità. Se da un lato, per esempio, lo studio di Fritz Martini, che è l'unico negli anni 30 che ha studiato la nobiltà in termini proprio di composizione sociale, ed è purtroppo uno studio che è rimasto unico nel suo genere e già risale però a 50 anni fa, se da un lato appunto questi studi hanno dimostrato una tendenza alla disaffezione della nobiltà, all'estraniamento della nobiltà nei confronti della gestione diretta della terra, quindi hanno evidenziato una tendenza all'assenteismo di una parte della nobiltà della Marca, dall'altra però vi sono ricerche, soprattutto microanalitiche, che hanno mostrato come molti nobili nei propri possedimenti tendessero a un ammodernamento delle strutture, Certamente questa tendenza verso l'ammodernamento non era per lo più una consapevole tendenza a realizzare il capitalismo. Per lo più si trattava di forme di adattamento o di ammodernamento graduale che non intendevano sconvolgere il quadro esistente. È infatti sintomatico che questo ammodernamento veniva realizzato per lo più attraverso un maggior sfruttamento della manodopera disponibile. E questo sfruttamento della manodopera veniva effettuato in entrambi le direzioni, nella direzione feudale, diciamo così, quindi in uno sfruttamento della manodopera tenendola serva, tenendola asservita all'azienda, Leibeigen. Ma anche c'era la tendenza in molte zone a un'accentuazione dello sfruttamento della manodopera in senso capitalistico, cioè liberando la manodopera da obblighi feudali e dando vita ad un salariato rurale di tipo capitalistico. Questo soprattutto nella Prussia orientale è stato dimostrato, però anche per esempio per il Mecklenburgo, ci sono degli studi sul Mecklenburgo, per esempio su Greifswald e sui contadini della città di Greifswald, sui contadini dell'isola di Rügen, che dimostrano come ci fosse una tendenza molto forte alla creazione di un salariato rurale. Ecco, questa premessa, che poi in realtà quasi conclude la mia relazione, è per indicare come ci fosse una dinamica piuttosto forte all'interno della società rurale. Vediamo ora per punti, ripeto soltanto per alcuni punti, come lo Stato federiciano si atteggia nei confronti di questa dinamica. Vediamo ad esempio nei confronti degli affittuari demaniali uno dei problemi centrali di discussione, di frizione tra lo Stato e i Pächter è il problema della durata degli affitti. Qui si contrappongono due interessi nettamente divergenti. Da parte dello Stato c'è l'interesse a determinare affitti temporalmente molto ridotti, cioè a mantenere la durata massima di 6 anni, perché al termine di ogni affitto c'era la ricontrattazione del canone e quindi c'era la possibilità per lo Stato di aumentare il canone e di adattare il canone a prezzi che in questo periodo, ultimo trentennio del Settecento, sono in fase ascendente in tutta l'Europa. Dall'altra però c'è da parte degli affittuari una tendenza opposta, c'è una tendenza a allungare la durata degli affitti e questo per avere una sicurezza di detenere la stessa azienda per più di 6 anni, allo scopo soprattutto di poter effettuare riconversioni produttive che necessariamente richiedevano tempi lunghi, soprattutto rotazioni complesse, cosiddetta Fruchtwechselwirtschaft o Koppelwirtschaft, che veniva dal Mecklenburgo, le quali poi avevano origine in Inghilterra, in realtà nell'agricoltura avanzata inglese del Settecento, le quali richiedevano rotazioni di 9-12 anni. E richiedevano soprattutto tempi lunghi per essere redditizie. Nessun affittuario si poteva permettere di effettuare investimenti culturali sapendo che entro 6 anni questi investimenti non gli avrebbero fruttato nulla, che sarebbe andato in perdita, e quindi senza essere sicuro che al termine dei 6 anni gli venisse rinnovato automaticamente l'affitto. Come si tenta di contrastare di superare questa contraddizione tra l'interesse fiscale dello Stato e l'interesse economico degli affittuari, che però l'interesse economico degli affittuari è anch'esso un interesse dello Stato, perché l'aumento della ricchezza degli affittuari significava poi nel lungo periodo un aumento del gettito fiscale, e siccome lo Stato prussiano era proprio fondato sulle tasse, sulla fiscalità, mi sembra, direi, che l'elemento fiscale era assolutamente fondamentale. Si tenta di superare questa contraddizione con praticamente un modus vivendi per cui, come dicevo, c'è una sorta di trasmissione ereditaria, quasi ereditaria, dell'affitto, se non intervengono elementi assolutamente negativi, come ad esempio un affittuario che tratta molto male i suoi contadini o un affittuario che non paga regolarmente i canoni o cose del genere, tendenzialmente si va verso un prolungamento degli affitti. Però chi è colui che gestisce questo prolungamento? Non tanto il sovrano, non tanto lo Stato centrale, il quale insiste continuamente sul mantenimento dei 6 anni come termine ultimativo di durata degli affitti, quanto la burocrazia locale. E quindi assistiamo, e qui è un problema che credo si riflette anche sul fine Settecento e sul periodo delle riforme, assistiamo, credo, al formarsi di un nuovo blocco sociale nelle campagne, di un blocco tra burocrati locali, cioè soprattutto i Kammerbeamten, no, i burocrati camerali, e affittuari. Va ricordato altresì che gli affittuari, che i Beamten non potevano prendere in affitto terre. Questo già era stato fissato in maniera perentoria da Federico Guglielmo negli anni 20. Questo per evitare collusioni, per evitare truffe, per evitare il rafforzamento poi di questi Beamten. Ma in realtà, se si va a vedere la composizione sociale degli affittuari, si scopre che spesso l'affittuaria è la moglie di un Beamte, o è il figlio di un Beamte, o è il cugino, il nipote di un Beamte. Quindi c'è il superamento di questo divieto rigido statale attraverso forme di parentali, praticamente, attraverso legami parentali tra Beamten e affittuari. Per quello che riguarda invece i proprietari nobiliari, quindi questa è una contraddizione intanto abbastanza importante, per quello che riguarda i proprietari nobiliari vorrei sottolineare un elemento di contraddizione estremamente forte tra la Weltanschauung di Federico II e questa dinamica della società. Come credo la maggior parte di noi sanno, Federico II aveva, al di là del suo amore o interesse per la letteratura illuministica, aveva una visione della società che era fortemente gerarchizzata e cetuale, cioè pienamente, secondo me, cetuale. E lo dimostra la struttura stessa dell'Allgemeines Landrecht, che in questo senso è frutto, a mio avviso, figlio, proprio prodotto ultimo e culminante dell'assolutismo di Federico II. All'interno di questa visione gerarchizzata e cetuale, la nobiltà deteneva per Federico II appunto il ruolo primario di ceto che doveva difendere lo Stato, che doveva servire lo Stato e al quale quindi occorreva che lo Stato desse tutti gli aiuti possibili per consentirgli di mantenersi saldo, di mantenere la sua sussistenza economica in maniera da poter effettuare i servizi che gli venivano richiesti. C'è quindi un nesso inestricabile tra privilegi e servizi, secondo me, che va messo in luce di fronte a interpretazioni un po' schematiche secondo le quali l'assolutismo di Federico II avrebbe tout court dato privilegi alla nobiltà. Certo, dava privilegi, intendeva dare privilegi, però intendeva richiedere e richiedeva in cambio dei servizi molto precisi e anche molto onerosi, questo soprattutto nel settore militare. Per esempio il controllo che Federico II attua sugli ufficiali giunge a forme di controllo esistenziale. Gli ufficiali prussiani vengono addirittura controllati nella loro vita privata, nella loro sfera affettiva, gli viene vietato il matrimonio o invece viene loro imposto il matrimonio con certe donne di certa classe sociale, vengono controllati, o perlomeno tendenzialmente vengono controllati in tutti i momenti della loro vita. Quindi le forme di controllo erano senz'altro onerose, accanto ai privilegi di cui indubbiamente godevano. Però questo rapporto tra privilegi e servizi, a mio avviso, tende a sclerotizzarsi verso la fine del regno di Federico II, nell'ultimo trentennio del secolo, tende a sclerotizzarsi in una forma di blocco, di congelamento dell'assetto sociale che in realtà è deleterio per la stessa nobiltà. Quando ai primi dell'Ottocento tutti gli osservatori coevi parlano di una crisi della nobiltà in Prussia come in generale in Germania e forse anche in tutta Europa, in Prussia questa crisi della nobiltà, a mio parere, deve essere ritrovata nelle sue origini nella politica di protezione che Federico II accordava alla nobiltà. Pare un paradosso, in realtà mi sembra che questa sia una contraddizione fondamentale per capire il il ritardo storico con cui la Prussia arriva alla grande, al grande appuntamento con la transizione verso una società borghese democratica e capitalistica. Ritardo storico che poi si ripercuoterà, come tutti sappiamo, ancora nell'Ottocento e, secondo alcuni, ancora nel Novecento, con una particolare caso prussiano, o un Sonderweg, come è stato chiamato da buona parte della storiografia. Questa politica di protezione, appunto, è in realtà deleteria, perché non corrisponde assolutamente agli interessi della nobiltà. Certo, di primo acchito, quando vengono effettuati ad esempio interventi di sostegno finanziario, di puro e semplice assistenzialismo a favore della nobiltà, a prima vista questi interventi apparivano congrui agli interessi di nobili che si trovavano in crisi. In realtà da queste forme di sussidio si passa molto presto, sotto l'impulso della Weltanschauung federiciana, ad una politica di blocco della dinamica sociale, che si attua soprattutto nella forma del blocco di ogni transazione patrimoniale, cioè di ogni possibilità da parte di non nobili di acquistare terre nobiliari. Questo blocco viene ripetuto da Federico II con ostinazione e testardaggine, direi, per tutto il suo regno. Fino agli ultimi anni Federico II punta i piedi ogni volta che gli vengono prospettati casi particolari in cui gli si chiede di fare un'eccezione, molto spesso, almeno negli atti che io ho potuto consultare, in realtà poi il sovrano cede, perché si rende conto che se quella famiglia non viene messa in condizione di vendere una parte della sua proprietà sarà costretta a andare in bancarotta. Però questo blocco è difeso tenacemente contro ogni dinamica sociale, la dinamica sociale che in questo momento andava, lo ripeto, verso una incipiente transizione al capitalismo, per cui certi settori della nobiltà, meno attrezzati anche dal punto di vista culturale, cioè culturale nel senso di mentalità, si trovavano in forte ritardo nei confronti del nuovo che si avanzava nelle campagne, e invece nelle città, nel settore della borghesia, si può vedere un certo sviluppo. Ecco, qui un certo sviluppo che si rispecchia ad esempio nella fortissima tendenza di borghesi ad acquistare terre nobiliari. Qui si apre un problema che io personalmente non sono riuscito a risolvere, che però non ho trovato finora risolto in nessuno studio, cioè si apre il problema di quali fossero le fonti di questa ascesa economica di una certa borghesia urbana, stante la notoria e dalla tradizione, dalla storiografia continuamente asserita debolezza della borghesia prussiana. Perché in realtà questa borghesia prussiana negli anni 60-70 del Settecento si presenta sul mercato dei capitali con una domanda fortissima di acquisti di terre, che significava uno status symbol, significava un salto proprio qualitativo, e ci si chiede da dove provengano i capitali che questa borghesia quasi improvvisamente si trova a detenere e che intende impiegare soprattutto nel settore agrario, sia per la ragione del status symbol, sia per la ragione che, appunto, dicevo, che ci troviamo in una fase di prezzi alti, in una fase di congiuntura molto favorevole, per cui le rendite fondiarie, come ha dimostrato Abel nei suoi fondamentali studi, sono in forte ascesa. Ecco, questa politica quindi di blocco, e questa politica di blocco trova la sua massima espressione, e concludo su questo punto, stando quindi nei 30 minuti che sono stati giustamente richiesti, trova il suo culmine nella politica di credito a favore della nobiltà, che è un tema particolarmente interessante su cui finora la storiografia non si è, credo, soffermata a sufficienza. Mi riferisco cioè alle Landschaften, che sono istituzioni di credito create a partire dai primi anni 70 da Federico II nelle varie province, non in tutte, nelle varie province della monarchia prussiana. Landschaften che sono istituti di credito speciali per la nobiltà, fondate sul principio della responsabilità collettiva del ceto nobiliare, quindi ancora una volta nella Landschaft c'è l'elemento cetuale fortissimo, la nobiltà del Kreis è responsabile nel suo insieme di prestiti che vengono fatti sotto forma di cartelle, che vengono messe su una sorta di mercato in vendita, su una sorta di mercato dei capitali, come potrebbe essere le obbligazioni nostre, risponde quindi collettivamente di aziende nobiliari in crisi. Quindi un'azienda nobiliare che è in crisi chiede l'apertura di un procedimento di sdebitamento, vengono emesse cartelle, chiamiamole di obbligazione, a favore di questa azienda, queste cartelle vengono acquistate, vengono vendute sul mercato e vengono acquistate per lo più da borghesi, con i soldi tratti dalla vendita di queste cartelle, la Landschaft opera il risanamento economico dell'azienda gestendola commissarialmente fino al momento in cui i conti non sono di nuovo tornati in positivo o al pareggio. Questa forma della Landschaft ha agli occhi di Federico II, e secondo me è questo, è questo il sintomo proprio di questo blocco storico che si sta verificando, ha il pregio di consentire di aiutare la nobiltà impedendo una sua contaminazione, perché i capitali che alla nobiltà affluiscono sotto forma di acquisti di obbligazioni da parte dei borghesi sono capitali indiretti, cioè la borghesia non accede alla proprietà diretta della terra, la proprietà della terra viene mantenuta per quanto possibile al nobile, alla sua famiglia. Il borghese però la sovvenziona, quindi la borghesia nel meccanismo delle Landschaften dovrebbe sovvenzionare il mantenimento dell'agricoltura nobiliare senza poter godere alcun frutto da questo mantenimento. In realtà poi le Landschaften credo hanno dimostrato in maniera molto chiara di non essere in grado di sopperire alla profonda crisi della nobiltà e dell'agricoltura in generale, perché sia non vengono fermati gli acquisti da parte di borghesi che in modo di vari riescono a superare il divieto regio, sia il processo di indebitamento della nobiltà prosegue ineluttabile e irrefrenabile, tanto che alla fine del Settecento, ai primi dell'Ottocento, la nobiltà prussiana si troverà in grave crisi economica, almeno in alcune sue parti, e l'agricoltura prussiana nobiliare sarà fortemente indebitata. Tuttavia, quello che vorrei sottolineare da ultimo è questa pervicace volontà di Federico II di bloccare la dinamica sociale, quindi di bloccare una incipiente transizione verso il capitalismo per mantenere quell'apparato centrato su una gerarchia cetuale che vedeva la nobiltà al suo vertice, quell'apparato fiscale e militare su cui si era costruito ai primi del Settecento, o se vogliamo già nella seconda metà del Seicento, lo Stato assoluto in Prussia. Quello che Hans Rosenberg ha chiamato il compromesso, che noi possiamo chiamare compromesso storico, tra nobiltà, vabbè, non usa più, però insomma, lasciatemelo dire, io lo chiamo così, perché è storico, cioè è un compromesso ormai storico, non è più presente, attuale, quello che Hans Rosenberg ha chiamato appunto il compromesso costitutivo, il patto costitutivo potremmo dire noi, per usare Gianenrico Rusconi, il patto costitutivo tra lo Stato, la monarchia e la nobiltà prussiana, patto costitutivo su cui si basa appunto l'assolutismo prussiano. Mi sembra, e concludo, che in questo senso vada così vista in modo più dialettico e complesso anche il problema della transizione. Perché, e qui ci si può anche chiedere, da dove deriva questo nuovo blocco storico, questo blocco dei burocrati riformisti che, secondo Coselle e poi secondo una storiografia ormai credo consolidata, sono i principali attori della riforma prussiana. E soprattutto, da questa crisi, quali sono gli elementi, da questa crisi di fine Settecento, quali sono gli elementi che poi porteranno nell'Ottocento a una ricompattamento della Prussia e al suo ritorno al rango di grande potenza che alla fine del Settecento aveva sicuramente perso. La sconfitta con la Francia è ignominiosa, sconfitta con la Francia è da questo punto di vista una spia abbastanza precisa. Ecco, io così mi scuso di essere stato anzi molto confuso, ma credo di avere concluso. Grazie. Grazie molto. Vorrei chiederti, questo è un saggio che tu hai già pubblicato? No, è in pubblicazione. Dove? No, su diciamo... Gesellschaft. Ecco, no. Allora, appunto, no, è importante sapere che forse su Gesellschaft uscirà questo, la versione in, quindi in tedesco, insomma, di questo referat, no? Più sì. o meno, molto più grande. Eh beh sì, è meno confusa anche di questo. Grazie, io passerei direttamente, se non ci sono domande immediate, ci sono domande immediate. Ecco, Krüger vuole, allora scusa. Volevo sapere tra dove prende il capitale questa borghesia che finalmente compra queste ipoteche, no? delle Landschaft, a parte della gestione delle domeni, dei domeni. Da dove prende? C'è una particolare attività commerciale, qualcosa, no? Perché normalmente si sente che diciamo, il commercio nelle città, centrali, è fortemente imbarazzato. Sì. Ma questo effettivamente è un problema che io stesso ho posto, cioè è un problema a cui non credo, non mi risulta che nessuno abbia dato risposta. Gli studi che ci sono, anche molto recenti, per esempio di Kaufhold, sul Das Gewerbe in Preußen um 1800, che è credo lo studio più ampio e più dettagliato sul quadro delle attività economiche e manufatturiere in Prussia alla fine del Settecento, non danno indicazioni precise, mi pare, sulla consistenza di questo capitale, di questo potenziale capitale che è lì, che però c'è, è un dato di fatto, perché la Landschaft Slesiana, per esempio, nel giro di pochi anni, da 1 milione di talleri di obbligazioni vendute, si passa a 11 milioni di talleri di obbligazioni vendute, sulle quali obbligazioni, come qualcuno sa, si innesca un meccanismo di speculazione borsistica, cioè vengono comprate, vendute, rivendute e ogni volta il prezzo aumenta perché la rendita fondiaria è in aumento, eccetera. È veramente un problema, io l'ho posto anche a Berlino ai colleghi della DDR che hanno gli archivi e che si occupano molto di queste cose e in realtà credo che sia un problema a cui non è stata ancora data risposta. Bisognerebbe fare degli studi più approfonditi sui Domänenpächter, non solo nella Marca e nella Prussia orientale come è stata fatta, ma anche in altre province. E poi soprattutto bisognerebbe andare a studiare molto meglio di come è stato fatto finora la manifattura. E perché non è stata studiata tanto? Perché la manifattura è stata studiata in base a quella, come dire, pregiudizio storiografico che io ricordavo all'inizio. Cioè si è studiato le manifatture regie, si è studiata le manifatture, non so, per i prodotti necessari all'esercito, le manifatture di porcellane, il Lagerhaus, si sono studiate queste... Quella mercantilistica, insomma. Esatto, è stato studiato il settore mercantilistico della manifattura, il settore più strettamente dipendente dall'iniziativa statale e è stato studiato molto meno o quasi niente, però per Krefeld, per il Reno è stato studiato, per esempio da Kisch, ma da un americano, guarda caso, non da tedeschi, è stato studiato la protoindustria, eccetera. Ecco, bisognerebbe andare a fare degli studi più approfonditi, sono iniziati per esempio gli studi sugli ebrei e sugli ugonotti. Il libro della Jersch Wenzel e adesso anche a Berlino Est c'è un gruppo di studio che sta lavorando sugli ugonotti e che promette una ricerca approfonditissima sugli ugonotti a Berlino nel Settecento. Forse da studi del genere avremo alcune risposte per capire la provenienza di questi capitali, perché effettivamente c'è una lacuna storiografica. Il problema io lo pongo appunto soprattutto dal punto di vista, come dire, così, dell'esigenza storiografica. Non so.